Parlai a Saint-Louis d'un mio amico, il direttore del Grand Hotel di Balbec, il quale, a quanto sembrava, aveva sostenuto che in certi reggimenti francesi c'erano state, all'inizio della guerra, delle defezioni, da lui chiamate difettosità, e aveva accusato ad averle provocate quel che chiamava il militarista prussiano. Aveva creduto persino, a un certo punto, a uno sbarco simultaneo dei giapponesi, dei tedeschi e dei cosacchi a Rivebelle, con minaccia per Balbec, aggiungendo che non restava altro che sfilarsela. Giudicava il trasferimento dei pubblici poteri a Bordeaux un po' precipitoso e dichiarava che avevano fatto male a sfilarsela così in fretta. A proposito di suo fratello, quel germanofobo diceva ridendo: «È nelle trincee, a 25 metri dai crucchi!» Fino a che, scoperto che lui stesso lo era, lo misero in un campo di concentramento. A proposito dell'albergo di Balbec, ti ricordi dell'ex ragazzo dell'ascensore? Mi chiese Saint-Louis al momento di lasciarmi, con un tono, come se non sapesse bene di chi parlava e contasse su di me per avere lumi. Si arruola. E mi ha scritto perché lo faccia entrare in aviazione. Probabilmente il lift era stanco di salire nella gabbia prigione dell'ascensore e le altezze della scala del Grand Hotel non gli bastavano più. Stava per prendere i galloni, ma non come portiere, perché il nostro destino non è sempre quello che ci aspettavamo. Appoggerò sicuramente la sua domanda, aggiunse Saint-Louis. Lo dicevo a Gilbert ancora stamattina. Di aeroplani non ne avremo mai abbastanza. È con quelli che si vedrà cosa prepara l'avversario. È così che gli si toglierà il vantaggio principale di un attacco, la sorpresa. Il miglior esercito sarà forse quello che avrà gli occhi migliori. Avevo incontrato il lift aviatore pochi giorni prima. Mi aveva parlato di Balbec e io, curioso di sapere che cosa mi avrebbe detto di Saint-Louis, condussi il discorso in modo da chiedergli se era vero, come mi avevano detto, che il signor di Charlus aveva verso i giovanotti, eccetera. E il lift mi parve stupito. Non ne sapeva assolutamente niente. In compenso accusò il giovane ricco, quello che viveva con l'amante e tre amici. Poiché aveva l'aria di fare d'ogni d'erba un fascio, e sapevo da Charlus, il quale me l'aveva detto, come si ricorderà, davanti a Brichot, che non era affatto così, dissi al lift che sicuramente si sbagliava. Oppose ai miei dubbi le più recise affermazioni. Ci pensava l'amica del giovane ricco a sedurre i ragazzi, e se la spassavano tutti insieme. Così il signor di Charlus, il massimo competente in materia, si era completamente sbagliato, tanto parziale, segreta, imprevedibile è la verità. Per paura di fare un ragionamento da borghese, di vedere lo charlisme dove non c'era, aveva avuto sotto gli occhi quel fatto, la seduzione operata dalla donna, senza vederlo. «Lei è venuta a trovarmi molto spesso», mi disse il lift. Ma ha capito subito con chi aveva a che fare. Ho rifiutato categoricamente. Non ci bazzico io in quel genere. Le ho detto che mi dispiaceva tassativamente. Basta che una persona sia indiscreta e subito lo si risa. Non si trova più lavoro da nessuna parte. Queste ultime ragioni indebolivano le virtuose dichiarazioni iniziali, giacché sembravano implicare che il lift avrebbe ceduto se fosse stato sicuro della discrezione. Con Saint-Louis era andata certamente così. È probabile che anche l'uomo ricco, la sua amante e i suoi amici non fossero stati meno favoriti, visto che il lift citava molte conversazioni avute con loro in periodi assai diversi, cosa che raramente succede dopo un rifiuto categorico. Per esempio, l'amante dell'uomo ricco si era rivolta a lui per conoscere un fattorino di cui era molto amico. «Non credo che lo conosciate, non c'eravate a quel tempo. Lo chiamavano Victor. Naturalmente», aggiungeva il lift con l'aria di riferirsi a leggi inviolabili e un po' segrete. «Non si può dir di no per un collega che non è ricco». Mi ricordai dell'invito che l'amico nobile dell'uomo ricco mi aveva rivolto qualche giorno prima della mia partenza da Balbec, ma è probabile che non c'entrasse e fosse dettato solo dalla cortesia. E allora la povera Françoise ce l'ha fatta a far riformare il nipote? Ma Françoise, che da tanto tempo le aveva provate tutte perché il nipote fosse riformato, e quando le avevano proposto una raccomandazione tramite Guermont per il generale de Saint-Joseph, aveva risposto in tono disperato: «Oh no, non servirebbe a niente, non c'è niente da fare con quel vecchio, è il peggio che ci possa essere. È patriottico!» Françoise, non appena si era parlato della guerra, e per quanto dolore potesse provarne, pensava che non si dovessero abbandonare i poveri russi, visto che eravamo alleanzati. Il maggiordomo, pur persuaso che la guerra sarebbe durata appena 10 giorni e sarebbe finita con la schiacciante vittoria della Francia, non avrebbe osato, per timore d'essere smentito dagli avvenimenti, e nemmeno avrebbe avuto abbastanza immaginazione per predire una guerra lunga e indecisa. Ma da questa vittoria completa e immediata cercava almeno di estrarre in anticipo tutto quanto potesse far soffrire Françoise. Potrebbe mettersi male. Pare che ce ne siano molti che si rifiutano di marciare, ragazzi di 16 anni che si mettono a piangere. E dirle così, per farla star male queste cose spiacevoli, era ciò che chiamava stuzzicarla, punzecchiarla, lanciarle qualche frizzo. «Di 16 anni, Maria Vergine!» diceva Françoise, e, diffidente per un attimo, «eppure dicevano che li avrebbero presi solo dopo i 20 anni, sono ancora dei bambini!» «Naturalmente i giornali hanno dato l'ordine di non dirlo. Del resto saranno tutti giovani quelli che manderanno avanti, torneranno mica in molti. Da un lato non è un male, un buon salasso ci vuole di tanto in tanto, farà bene al commercio. E per Diana, se ci sono dei ragazzi troppo teneri che hanno qualche esitazione, li fucilano immediatamente, 12 pallotte in corpo e via. Da un lato, bisogna. E poi, gli ufficiali, cosa volete che gliene importi? Si beccano le pesetas loro, non chiedono altro.» Françoise impallidiva a tal punto durante queste conversazioni che c'era da temere che il maggiordomo la facesse morire di crepacuore. Non per questo perdeva i suoi difetti. Quando veniva a trovarmi una fanciulla, per quanto male alle gambe la vecchia domestica potesse avere, mi capitava, uscendo di camera mia, di vederla in cima a una scala, in guardaroba, intenta, diceva, a cercare qualche mio cappotto per vedere che non ci fossero entrate le tarme, in realtà per ascoltarci. A dispetto di tutte le mie critiche, aveva sempre quella maniera insidiosa di far domande in modo indiretto, per cui aveva adottato da un po' di tempo un certo «perché di sicuro». Non osando chiedere «a una casa, quella signora?», mi diceva, guardando timidamente in su come un buon cane, «perché di sicuro quella signora avrà una casa sua», evitando l'interrogazione flagrante, meno per essere educata che per non sembrare curiosa. Insomma, poiché i domestici che amiamo di più, e soprattutto se non ci rendono quasi più i servizi e i riguardi della loro mansione, rimangono, ahimè, dei domestici e sottolineano tanto più nettamente i limiti che noi vorremmo cancellare della loro casta quanto più credono di penetrare nella nostra. Françoise aveva spesso nei miei confronti, per pungolarmi, avrebbe detto il maggiordomo, certe strane uscite che una persona di mondo non si sarebbe mai permessa, con una gioia dissimulata, ma non meno profonda che se si fosse trattato di una malattia grave. Se avevo caldo e il sudore, non ci facevo caso, mi imperlava la fronte. «Ma siete tutto in un bagno», mi diceva, stupita come davanti a un fenomeno strano, sorridendo un po' con il disprezzo che si ha per qualcosa di indecente. «State uscendo e vi siete dimenticato di mettere la cravatta», sempre con quel tono di voce preoccupato a cui si ricorre per mettere qualcuno in allarme sul proprio stato. Si sarebbe detto che io solo in tutto l'universo fossi stato in un bagno. Infine, non parlava più bene come un tempo. Nella sua umiltà nella sua tenera ammirazione per esseri che le erano infinitamente inferiori. Adottava infatti il loro brutto modo di esprimersi, poiché sua figlia, lamentandosi di lei con me, mi aveva detto, non so da chi l'avesse imparato, ha sempre qualcosa da ridire, e che chiudo male le porte, e patati e patatà. Françoise dovette credere che solo la sua incompleta educazione l'avesse sin qui privata di un così bell'uso. E da quelle labbra, dove avevo visto fiorire il francese più puro, dovetti sentire parecchie volte al giorno «e patati e patatà!». È curioso, del resto, quanto poco varino in una persona non soltanto le espressioni, ma anche i pensieri. Il maggiordomo, avendo preso l'abitudine di dichiarare che Poincaré era male intenzionato, non riguardo al denaro, ma perché aveva assolutamente voluto la guerra, lo ridiceva 7 o 8 volte al giorno, davanti allo stesso uditorio abituale e sempre ugualmente interessato. Non una parola veniva modificata, non un gesto, un'intonazione. Sebbene la cosa non durasse che 2 minuti, era invariabile come una rappresentazione. I suoi errori di francese corrompevano il linguaggio di Françoise quanto gli errori della figlia. Era convinto che quelli che il duca di Rambuteau si era tanto arrabbiato un giorno di sentir chiamare dal duca di Guermont le edicole Rambuteau si chiamassero pistoi. Evidentemente nella sua infanzia non aveva sentito la seconda sillaba e così aveva continuato. Pronunciava dunque questa parola in modo scorretto ma perpetuo. Françoise, dapprima imbarazzata, finì col dirla a sua volta, per lagnarsi che non ce ne fossero per le donne come per gli uomini. Ma la sua umiltà e la sua ammirazione per il maggiordomo facevano sì che non dicesse mai «pisciatoi», ma, con una leggera concessione all'uso corrente, «pissitoi». Non dormiva più, non mangiava più. Si faceva leggere i bollettini, di cui non capiva niente, dal maggiordomo, che non ne capiva più di lei. E il desiderio di tormentare Françoise, essendo spesso dominato in lui da un'esultanza patriottica, diceva con una simpatica risata, parlando dei tedeschi, «Si mette male, il nostro vecchio Joffre gli sta preparando qualche buon piattino». Françoise non capiva di che piattino si trattasse, ma non per questo era meno consapevole del fatto che la frase era una di quelle amabili e originali stravaganze a cui una persona ben educata deve rispondere, per urbanità, con allegria e alzando gaiamente le spalle, con l'aria di dire «è sempre il solito, lui!». Mitigava le lacrime con un sorriso. Era felice che almeno il nuovo garzone del macellaio, alquanto pauroso, nonostante il suo mestiere, eppure aveva cominciato nei macelli, non fosse in età di partire. Altrimenti sarebbe stata capace d'andare dal ministro della guerra per farlo riformare.